Innamorati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ha iniziato un percorso nuovo, non è semplice, diamo tempo anche a Balotelli di, tra virgolette, integrarsi, no, in questo nuovo campionato. Noi lo stiamo seguendo, così come seguiamo tutti quanti i calciatori che giocano all'estero. Io faccio delle convocazioni, ecco, non faccio delle esclusioni. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Un bambinone che ancora non ha capito l'importanza del suo ruolo. Balotelli, credo che si parla molto, si parla demasiado. Crosta alla tre quarti, l'ennesimo, Balotelli! Eccolo il primo gol con la maglia del Liverpool, sotto la Kop, sblocca la partita, 9 dalla fine. Mario Balotelli tiene vivo il pallone e lo scarica alle spalle di Borjan. Franco Piantanino, il nostro autore, Roberto Scaltretti in regia. Franco, allora, oggi titolare. Perché gli altri giorni no. Allora, il presidente federale Tavecchio, presidente federale squalificato per UEFA e FIFA, ma questa è un'altra storia, ha detto: ieri ho parlato con Conte e gli ho fatto i complimenti, ma non per Balotelli. Lui mi ha risposto in maniera estremamente chiara: noi lo dobbiamo testare e io non lo conosco. Questo avrebbe detto Conte a Tavecchio. Ma c'è un'altra ragione per questa sorprendente convocazione, ed era la depressione di Pardo ieri pomeriggio. Ciao Pierluigi. Che depressione? No, ieri pomeriggio, per quelli che ci ascoltavano. Per quelli che non ci ascoltano, appuntamento dalle 5 alle 7 la domenica. Per quelli che ci ascoltavano, ieri ti sei lamentato, hai fregnato a lungo perché ci si ferma per la nazionale, che palle, certo, il campionato. Ribadisco. Ma come? E Conte ti convoca Balotelli stasera, tiki taka, ne parli due certo, ore, sera, botti sera, lo ascolti. No. Sì. No? Amato, ovviamente. Sì, ne parleremo di questo, parleremo di altro. Fra l'altro ci sono delle immagini esclusive che ci sono arrivate con un'uscita da un pub di Londra, di un club di Londra alle 4:30 no, di mattina. Era il Liberty Club di Londra. Liberty. Io sono informante. Liberty Club. Noi abbiamo le immagini, Londra. We have the pictures. Che si vede? Si vede lui, non posso svelare tutto. Giubbotto nero, fosforescente, cappuccio in testa, eh? Il Liberty Club. I'm unclean, a libertine, and every time I went, questi sono i placebo, alta qualità, devo dire che c'è telefono, poi sarebbe fiero di noi. Però sì. detto questo, credo che, beh, insomma, è un grande dribbling, è un dribbling da parte di Balotelli, è l'ennesimo dribbling della sua carriera post regolata e senza regole, fatta di alti e bassi, ed è anche clamorosamente un dribbling per Conte, perché sì. Insomma, francamente era difficile immaginare, no, che Balotelli, Cerci Immobile, il prossimo è Cassano e ricomponiamo l'attacco della nazionale insieme, poveretto. No, questa è una notizia, qui è il caso di farsi seri, di dire insieme, vale, poverino, grande in bocca al lupo, certo, grande in bocca al lupo a Lorenzino, che tra l'altro stava giocando in maniera meravigliosa in questo scorcio di stagione. Sfiga totale, rottura del legamento crociato e fuori 4-6 mesi, ho paura, stagione finita. Però tornando a Balotelli invece, mentre si sta giocando splendidamente, Balotelli che sta bene fisicamente, meno di così si muore, 0 gol, totale crisi in Premier League, totale crisi di identità, i tifosi di Liverpool che restituiscono la maglietta, e dribbling di Balotelli alla sua carriera a questo momento no, e di Conte. Non è chiarissima la motivazione della chiamata, però credo la spiegherà in conferenza stampa. Ma no? Sì, ma io credo che ci stia anche in assoluto l'idea di non isolarlo, di non a questo punto metterlo completamente ai margini del progetto. Arriva in un momento che è difficile, che è complicato per Balotelli, che è complicato anche in Inghilterra. Arriva in un momento in cui, anche da un punto di vista estremamente populista, può essere vista come una smentita di ogni possibile meritocrazia, no? Ci sono qui degli attaccanti come Okaka, faccio un esempio, come lo stesso Destro, che comunque fanno il loro, faticano, costruiscono, lo stesso Madri che sta recuperando, cioè, e si torna su Balotelli. Però poi io ti dico, Conte, io su Conte, Moreno scrive: Conte vuol provare a far giocare la nazionale in 10. No, ma io su Conte, tra l'altro, questa qui, non dimentichiamolo, non è una convocazione banale, è una convocazione delicata, perché la Croazia è l'avversaria sicuramente più pericolosa del girone. Quindi sinceramente io penso che poi Conte sia uno del quale o ti fidi o non ti fidi. Non credo che faccia delle scelte provocatorie per il gusto di essere provocatorio, non credo ancora meno che faccia delle scelte perché glielo dice lo sponsor. Sì. Penso che evidentemente nel suo progetto di crescita di questa squadra era il momento di mandare un segnale a Balotelli. Il paradosso è che gli dà un segnale positivo nel momento più difficile, insomma. Però alla fine, se ci pensiamo, potrebbe anche essere tutta una chiave psicologica. Un altro che torna in nazionale in un momento opposto è Carlitos Tevez. Su Olé avrai visto quel titolo, Tevez folla, dona, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sì che era inspiegabile come potesse star fuori dalla nazionale. Il gol di ieri, secondo te, è il più bello del campionato fin qui? Io a memoria non mi ricordo tutti, magari tu hai più memoria fotografica. Beh, stupendo, assomiglia in maniera abbastanza impressionante al gol di Eder una settimana fa in Sampdoria Fiorentina. Insomma, adesso a memoria non me ne ricordo tutti, diciamo che sicuramente nella short list dei 5-10 gol più belli ce lo mettiamo, e sì, poi magari vince pure. Ma Tevez è il giocatore più forte del campionato, ecco, su questo invece mi sento più sereno. Ma se qualcuno ha dei dubbi, secondo te? Beh, Higuain sta tornando a livelli molto importanti, sono i pochi crack che ci sono rimasti. Poi ci sono altre squadre, ad esempio la Roma, che ha un talento collettivo comunque enorme, profondissimo, e dei giocatori molto importanti. Gervinho nei momenti d'oro, nella sua specialità che è la partenza in campo aperto, sicuramente è un crack, no, per la dimensione del nostro campionato. Però ecco, in quel ruolo lì di attaccante più classico, più tradizionale, Tevez sia il numero uno e Higuain sia a un passo, a un centimetro. Il numero due, sono d'accordo. Anche, insomma, Higuain è un po' il barometro del Napoli, ma ne parliamo tra poco. Parliamo del Napoli, della Juve, sette bellezze, sette baci, sette bellissima, sette come volete, come vi pare. Della Roma, che comunque manda un bel messaggio, perché non c'è molta distanza, al di là dei numeri, nei modi, tra la vittoria della Juventus e quella della Roma. E poi parliamo di Pardo, che ha indovinato tutto nei pronostici, compreso il Verona che va a fare punti a San Siro. Tutti convocati. Sul secondo palo Cristo Doulopoulos la prende, poi Toni, Verona in vantaggio dopo 10 minuti, Luca Toni, Ranocchia, il cross è lungo, c'è Raffaele, colpi di testa di Palacio per Icardi, pareggia l'Inter con Maurizio Icardi, 1-1. Medel, Palacio in area di rigore, fa scorrere il pallone, Palacio calcia, arriva il 2-1 da rapinatore, da area di rigore, ancora Maurizio Icardi dentro per Saviola, in area di rigore Saviola con il tacco, Nicolò Los Conecos regalano il 2-2 al Verona, segna Nico Lopez. Non stanno andando le cose come speriamo tutti, e vincere le partite. Ma lei cosa dà fastidio? Dà fastidio che non siano tolleranti? Dà fastidio che manifestano con i fischi? Cos'è? No, quello è una cosa che mi dà fastidio, per quello ho fatto quel gesto nel primo tempo, nel primo gol. È una cosa che noi, se giochiamo in casa, dobbiamo avere i tifosi dalla nostra parte che ci sostengano. Qua giochiamo a San Siro, sembra che giochiamo in un altro campo. È una cosa che noi dobbiamo continuare a fare così, e se la gente vuole fischiare, noi lo accettiamo, va bene. Però le fa male, giustamente. giustamente non riesce giustamente da fastidio. La squadra ha giocato, ha continuato a giocare, ha trovato il pareggio, ha creato diverse palle gol, non ha avuto la fortuna di fare anche il 3-1 con Vidic, ha fatto una grande parata al portiere con Kuzmanovic. Secondo me abbiamo 80 minuti di supremazia territoriale, non ne abbiamo più concesso nulla, una squadra importante nel Verona che mette in difficoltà chiunque. Poi effettivamente quando siamo rimasti in 10 è normale che si è sofferto, e poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere, quindi... Piove sul bagnato, tanto tuonò che piove, e l'Inter ha un nuovo tremendo avversario, cioè Giove Pluvio. Intanto questa mattina... Ah, tra poco lancio il concorso Vota la maglia più brutta della domenica, in una domenica di orrori terrificanti, ma questo tra poco. Intanto, via Milano ha una nuova via, dalle parti della sede dell'Inter è comparso un cartello su uno delle insegne delle normali stradali delle vie, via Mazzarri dall'Inter. Ciao Andrea Sorrentino da Repubblica. Siete spietati, cattivissimi. Pardo che è cattivo, che aveva pronosticato un Verona che faceva punti a San Siro, aveva detto che vinceva. Io sono cattivo con Sorrentino perché mi sento comunque di averti un po' cambiato la vita nel suo rapporto. Dai, andiamo. E quindi mi sento, sì, aspetto una bottiglia di vino prima o poi, ecco, questo sì. Va bene, sarà di buona qualità, non credo. Via Mazzarri dall'Inter, indirizzagliela lì. Indirizza la bottiglia di vino a Pardo, via Mazzarri dall'Inter. No, ma guardate, questo è veramente adesso si è creato un clima assurdo nei confronti di questo allenatore, perché poi di allenatori fischiati nel loro stadio ne abbiamo visti tantissimi, forse qualsiasi allenatore della sua carriera è stato almeno una volta fischiato, ma voi non so se ricordate che qualche allenatore è stato fatto oggetto del laser verde in faccia dai suoi stessi tifosi, come succede ormai con Mazzarri a San Siro, è successo ieri sera e era successo anche con la Samp, vuol dire che c'è un clima davvero spaventoso intorno a quest'uomo. Io d'accordo, l'Inter non va bene, è nona in classifica, è in ritardo rispetto a se stessa lo scorso anno, ha dei problemi, ha un sacco di casini, diciamo così, ambientali. Però secondo me Mazzarri non è il peggior allenatore del mondo, non è la peggior persona del mondo, ha commesso degli errori probabilmente di gestione psicologica dell'ambiente nei mesi scorsi, però secondo me non è giusto che venga trattato in questo modo. Poi perché no, Andrea, ma sono cose che io Pardo, sì, cioè, diciamo tutte le volte, insomma, sì, se sì, la sì, guardi sì, dall'esterno sì, in maniera oggettiva, la situazione è questa. Il problema non è certo un'opinione pubblica giornalistica contraria a Mazzarri, è l'opinione pubblica intera, sono i tifosi, è la gente dell'Inter cui Mazzarri sta sulle palle, che non lo ama, non gli piace, lo trova brutto, odioso, antipatico, e non c'è niente da fare, no Pier? Il senso è questo, via Mazzarri dall'Inter. Ma sì, io guarda, io anche le interviste, è proprio da manuale di comunicazione, il problema di Mazzarri è essenzialmente un problema di comunicazione, poi se volete parliamo anche della parte tecnica, perché è chiaro che far uscire Icardi subito dopo aver preso il 2-2, sostituirlo con Osvaldo non ha, posso dirlo, grande significato. Lì c'era un giocatore, da quello che ci diceva Barzagli a bordocampo, che era stanchissimo, quindi o lo fai uscire subito e scegli Osvaldo per le sue caratteristiche come giocatore che ti può fare un po' respirare la squadra, oppure fare il cambio a 100 secondi dalla fine con un'ulteriore perdita di tempo, una cosa che veramente sembra ti vai a cercare i fischi, ecco, su una cosa del genere ti vai a cercare i fischi. Detto questo, io ribadisco, Mazzarri non sta facendo bene sicuramente, ma non sta facendo nemmeno così male da meritarsi un tipo di trattamento come quello che sta subendo, e devo dire che ieri nell'intervista post partita, anche proprio dal punto di vista della comunicazione, mi è sembrato spaesato, mi ha fatto tenerezza, quasi. Ecco, io ho pensato a tenerezza, adesso non vorrei che, perché veramente la situazione che sta affrontando è una situazione paradossale. Il laser l'abbiamo anche sottolineato in diretta, quel laser al 99% non era dei tifosi ospiti, al di là del fatto che il laser non ma figurati fatto, ma al 99% era fatto da qualche tifoso dell'Inter, che, cioè, allora di che stiamo parlando? Ha ragione Icardi in quello, nel dire che che avrebbero bisogno del sostegno del pubblico. Poi c'è un altro diritto, che è quello inalienabile del consumatore tifoso, quello che ci mette i soldi e che si prende la pioggia nei nostri stadi che fanno schifo, e che ha pienamente il diritto. Bisogna mettere nel conto però che è veramente difficile allenare, lavorare, giocare anche in un ambiente così, perché quanto dice Icardi, e può dirlo dopo aver segnato due gol eccetera eccetera, è reale, cioè andare a giocare è una tortura totale. Andrea, ieri sera il Verona segna al 10° minuto e all'11° sono arrivati già i fischi e il laser in faccia a Mazzarri. Vuol dire che la maggior parte delle persone va allo stadio già convinta che l'Inter farà schifo, e appena ne ha un'immediata prova, anche se la prova dopo 10 minuti ne mancano 80 alla fine, boom, partono i fischi. Quindi c'è un clima, come dicevo, spaventoso. Al tempo stesso, però, rispetto agli anni scorsi, mi sembra che ci sia una dirigenza un po' diversa dal solito, un Toir e i suoi, mi sembra che vogliano ragionare in termini più concreti, più quasi matematici, logici, e non si vogliano far trascinare dagli umori della piazza, perché dicono: abbiamo dato un progetto a Mazzarri, adesso vediamo come riuscirà a portarlo avanti. Era già esonerato, No, ma anche se guarda, Moratti, se fosse in questo momento presidente dell'Inter, avrebbe già mandato via Mazzarri da un mese, da dopo la sconfitta di Firenze, questo ve lo do per certo. Infatti l'ala morattiana del club spinge per questa soluzione. In realtà mi risulta che Toir voglia ancora pazientare. Mi dicevano che c'era, diciamo, una boa fissata alla fine del giro d'andata per capire, perché questi poi sono manager internazionali, ragionano. Sì, poi ti viene sospetto, sì, in termini numerici ti viene sospetto che magari di calcio magari non tantissimo. Allora, sono due cose: una, la distanza, la poca dimestichezza, eccetera. Dall'altro lato ci può essere un po' più di logica. Da un altro lato ancora, terzo del triangolo, la questione economica, che se mandi via Mazzarri lo devi pagare, e poi ne devi prendere un altro e lo devi pagare, e questo ho l'impressione che al proprietario indonesiano non piaccia tanto. Non gli piace affatto, ma poi soprattutto siamo tutti bene o male d'accordo che Mazzarri non stia facendo benissimo. Alcuni lo vogliono esonerare, d'accordo, esoneri Mazzarri, lascia stare i discorsi di denaro o non denaro. Ma chi è l'allenatore che in questo momento può prendere l'Inter e farla ripartire di slancio? Ce l'avete voi sulla piazza? No, ma poi per andare dove? Sicuro. No, ma poi per andare dove? Cioè, questa squadra per andare dove? Appunto, con un altro allenatore. Allora, arriva Roberto Mancini, che è il nome più caldo, perché è quello che colpisce di più l'immaginario collettivo. Arriva Mancini, prende questa squadra e la porta al secondo, al terzo posto in 2 mesi. A me risulta difficile pensarlo, a parte che Mancini arriva e ti chiede ovviamente 3 o 4 giocatori che piacciono a lui, e anche 4 milioni, e anche 4 milioni sul contratto ti chiede. Ma anche certo, ti chiede, ma anche certo. Grazie. Quindi Andrea, stiamo parlando di cose un po' così, poco concrete secondo me. Ciao a tutti. Ciao, grazie Andrea Sorrentino. Pia, tu stai lì ovviamente, adesso borsa, poi ascoltatori 800 24 00 24. L'ho già detto, forse no, lo ripeto: 800 24 00 24. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi, era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere. Gocce di pioggia su di me, mentre cammino sono triste senza te. Oggi che farò? Gocce di pioggia su di me, sul mio viso. Convocati. Mi piace molto Saveglia, non te la vita se Carlito, ma allora, che t'ha fatto sto ragazzo? Saveglia, no podés ser tan notario. Te olvidaste de Carlitos, tanto tiempo, tantos años. Presiento que si te ves al espejo, mucho te has de lamentar haberlo dejado lejos. esa vela. Ahí lo tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y es el tentativo que para Borruccia que siempre qui la trattenuta di Costa, evidente su Tevez, si prosegue per il vantaggio perché Tevez è partito, ancora Tevez in campo aperto, salta anche Lucarelli, Tevez, che azione! Anche qui siamo ai limiti del blasfemo, perché una cosa è segnare con l'Inghilterra ai mondiali, eccetera, un'altra segnare al Parma nelle condizioni in cui era ieri, a maggior ragione. Sfioriamo Tevez Donasi, dice Piantanino, sfioriamo la bestemmia calcistica e non solo. Però volevo dedicare questa canzone, che so che l'apprezzo da morire, al mio amico Pierluigi Pardo. Sei contento? Va bene, a me gusta moltissimo questa canzone. So che ti fa impazzire questa canzone, diventi matto, quindi volevo trovato una, abbiamo trovato una scusa per dedicartela. Me l'hai ricordata, era un sacco di tempo. Bei momenti. Quelli dei mondiali. Vabbè, senti, no, vabbè, Carlitos fuori dalla nazionale non ci poteva stare, questo è chiaro. Juventus, 7 bellezze, 7 baci, 7 bellissima, e qualche altro 7 da mettere, non lo so, quello che vuoi. 7 in pagella, no, che 7 in pagella, molto sette di più. 7 è poco. Se ne fa una questione invece di altri numeri, quelli del modulo, io ne farei una questione di giocatore e di condizione. Poi si dice che quando siano gli attaccanti una squadra è in salute. Ieri non il 3x2 ma il 2x3. 3 attaccanti e 2 doppiette. Ma guarda, io credo che la partita di ieri abbia dato, inevitabilmente finisca per dare una conferma dell'intuizione di Allegri, che chiaramente non è applicabile in tutte le partite, che chiaramente sembra più adatta per delle situazioni magari facili di partite in casa con squadre che si chiudono e che magari non hanno una grande solidità, però insomma non si può dire che abbia funzionato poco, ecco. È chiaro che se Morata esplode, se Llorente si riprende, se Tevez è Tevez, quello è un potenziale esplosivo che è quasi un delitto lasciare parzialmente almeno fuori, quindi assolutamente sarebbe riuscire a farli coesistere per più di qualche partita può diventare veramente una bella variabile positiva per la Juve, per aumentare il rendimento, penso anche a livello internazionale. È chiaro che con questo tipo di soluzione, con i tre attaccanti, come sempre il famoso discorso della coperta corta, hai bisogno poi di qualcuno, hai bisogno di senso di sacrificio da parte di tutti e tre. Sì, e poi Vidal dove lo metti? No, vabbè, certamente. È difficile. Vidal, sì, è difficile. Non puoi giocare con Vidal, Pirlo e uno e Pogba. Diventa molto complicato. È chiaro che a quel punto, per esempio, Pirlo, adesso dico una cosa blasfema, cioè con un attacco così tu puoi anche decidere di avere un centrocampo più semplicemente muscolare, no? Che punta al recupero del pallone e a servire gli attaccanti. Hai un pochino meno bisogno di una mente in mezzo al campo, premesso che Pirlo quando sta bene è un giocatore che è un crack, è un campione assoluto, quindi però stiamo ragionando in astratto, chiaro. È chiaro che se tu hai tre attaccanti così la soluzione, tutto questo può chiamare per un centrocampo un po' più muscolare, che poi è una vecchia idea di Allegri fin dai tempi del Milan, no? Un centrocampo di contenimento, di copertura, di qualità, esatto, che poi innesca una contraerea veramente straordinaria. Ci sta, ecco, ieri hanno giocato tutti e tre una partita incredibile. Sì, e al contrario, ho giocato una partita incredibile nell'altro senso il Parma, ma comunque insomma io dico che la Juventus, per questo ho detto, non c'è molta distanza tra le vittorie della Juventus e della Roma, al di là di quelle ovviamente numeriche, perché entrambe hanno vinto aggredendo la partita, l'avversario, il momento un po' così, la stanchezza, la paura, la pioggia è quello che volete, e hanno vinto la partita più o meno nella stessa maniera, che anche quella di Roma dopo 27 minuti era finita. Allora tra poco lancio il concorso, vota la maglietta più brutta secondo te qual è? Beh, non vorrei che tu dicessi quella del Parma di ieri? Di quelle viste ieri sì. No, però c'è da dire questa cosa qui, ovviamente insomma ieri lo dico però per chi non lo sapesse, Morata è entrato dopo, però comunque la novità tattica di ieri è stato il 4-3-2-1 con Pereira che aveva cominciato a titolare al fianco di Tevez alle spalle di Llorente, quindi sì. Comunque un modulo diverso, un po' più spregiudicato rispetto al passato. No, la maglia del Parma di ieri è però, da quello che so, da quello che ho letto e che ho anche ritwittato, frutto di un'iniziativa benefica per gli alluvionati di Parma, e quindi insomma sì, edizione speciale, adesso con una battuta potremmo dire che, visto che poi vengono vendute all'asta, ecco, adesso vendere queste maglie all'asta dopo lo 0-7 è complicato. Sì, ma no, ma poi si trova una ragione per tutto, anche il Cesena che ieri ha giocato con la maglia del Palermo rosa con i bordi nera a striscia orizzontale l'ha fatto per Pantani, così genericamente, perché gioca quest'anno ogni tanto con la maglia rosa ricordando i 10 anni della scomparsa di Marco Pantani. Vabbè, la Lazio in granata e la Juve, vabbè, la Juventus in blu comincia a diventare quasi un classico, la Roma in nero, Arlecchino al potere. Sia la Lazio che il Cesena, che la Juventus stessa, che il Parma oggi hanno, diciamo così, indossato delle maglie, sono scesi in campo con delle maglie francamente improbabili. Insomma, noi abbiamo anche una fatto con una DLS fatto vedere qualche cosa di questo. Insomma, il Cesena sembrava il Palermo, oggi era in maglia rosa, la Lazio il Torino perché aveva la maglia granata, la Juventus sembrava il Chelsea, il Parma sembrava l'Avellino. Ecco, si fanno bella fatica da casa e non solo a riconoscerli, perché certe volte dici, ma chi sta giocando? Chi sono questi giocatori? Con quali squadre? Va bene il marketing, va bene le esigenze del calcio moderno, però insomma, francamente. Anche Variale ieri, se l'è presa con le magliette. Siamo in buona compagnia. Danilo, Genova, buongiorno. Buongiorno Genta, buongiorno Pardo, senta, grazie per l'opportunità. Grazie a lei, che tempo fa lì? Diciamo che piove abbondantemente da stanotte, ecco, da stanotte. Ma non ha smesso? No. Piove meno, ma allerta 2 fino a domani sera. No, perché prima leggevo un messaggio, a parte che mi interessa, a parte che è la notizia più importante in questo momento in Italia, perché prima leggevo un messaggio di un tale Max, venuto prima nel nostro programma, che scriveva: a Genova ha smesso di piovere da stamattina, siete palesemente fallaci. Ho voluto chiedere informazioni a chi si trova lì. Dica Danilo. Allora, 3 cose, gente, io l'ascolto da una vita, 3 cose vorrei il suo parere e quello di Pardo. 3 cose, sono interista, sangue nero azzurro, eccole qua. Allora, io faccio un appello a tutti i tifosi dell'Inter e alla società e a chi vuole bene veramente a questa squadra per avere urgentemente 2 che meritano veramente la panchina dell'Inter. O Walter Zenga o Beppe Bergomi. Seconda cosa, non è vero che l'allenatore non fa la differenza. Io porto 2 esempi. Ricordate Mourinho cosa ha fatto in Inter Sampdoria giocando in 9 contro 11, ha fatto 1-0 e ha rischiato ancora di vincere la partita. Ieri sera non siamo riusciti a tenere un vantaggio di 2-1 col Verona. Un'altra cosa, rimpiango Samuel che ha 36 anni, per conto mio vale ancora di più di Vidic, Juan Jesus, Andreoli, Ranocchia, sommati tutti insieme. E poi non capisco perché Ranocchia è capitano, che è 4 anni che gioca nell'Inter. Ultima cosa, la differenza che fa l'allenatore in panchina. Guardate cosa sta facendo Mihajlovic a Genova, con la Sampdoria, con gli stessi giocatori, salvo 2, con gli stessi giocatori che aveva Delio Rossi. E chiudo, vi ascolto per radio, vi prego, faccio questo appello ai tifosi dell'Inter: Walter Zenga o Beppe Bergomi, 2 che hanno anche nel cuore e a cuore la passione dell'Inter. Vi ringrazio, mi ascolto, Danilo, per radio. Grazie a lei. Se è vero che si ascolta sempre, lei sa come la penso, quindi lascerò volentieri la risposta a Pardo. Allora, questa telefonata che adesso estrapoleremo dal programma è il manifesto dell'interismo, secondo me. Sì, in questo momento sicuramente è l'interpensiero. Su Zenga sia un'ipotesi, nel senso che però pare che non piaccia, da quello che so io non convince i dirigenti dell'Azzurri al momento. Zenga è l'ipotesi razionalmente più logica, perché se tu vuoi cambiare allenatore ma non vuoi caricarti un ingaggio da top trainer, allora non è che ci sono molte altre soluzioni. Mancini costa, anche se poi da quello che so in realtà lui è un po' stizzito da questo luogo comune, nel senso che lui alla fine pare che non sia così tanto attaccato ai soldi, cioè sia più disponibile eventualmente anche ad accettare per una sfida importante un ingaggio più basso, quindi forse è un po' una leggenda metropolitana, però è chiaro che comunque per quanto tu possa voler scendere, non è che puoi scendere del 50%, sì, potrà togliersi qualcosa, è comunque un ingaggio importante. Sicuro. Quindi Zenga sarebbe quello perfetto, però da quello che mi risulta non piace. Lo zio è un amico, adesso lo chiamiamo, però io credo che insomma faccia benissimo un altro lavoro e si sia anche un po' risolto nel fare quest'altro lavoro in televisione, non credo che Poi certo, la panchina dell'Inter, tutti ci pensano, tutti ci però, penserebbero, però insomma sì, ma poi, ma per andare dove con soluzioni di questo tipo? Cioè comunque non mi sembrano soluzioni programmatiche. Se uno dice ok, prendo Zenga come allenatore per 3 anni perché ci crede all'inizio stagione, sono soluzioni Berg, per fare felici i tifosi adesso, esattamente, però Pier, questa è un po' questa però è un po' la novità di una dirigenza che tiene duro dopo anni di dirigenze che comunque accontentavano i tifosi. Anche questa dirigenza lo ha fatto, ricordi, però era un momento diverso, ricordi la questione di Vucinic e di Guarin dell'anno scorso. La piazza allora decise, vedremo se deciderà anche in questo caso. Traffico. Si continua a sentire queste voci che riguardano un pochettino il suo futuro. Lei come vive questa? Vado, io lavoro come ho sempre fatto, io penso alla prossima partita, non sono decisioni che devo prendere io, quindi io mi occupo solo di allenare la squadra come ho sempre fatto per 15 anni. Senta, io non vorrei tanto portarla per le lunghe, però io voglio la testa di Mazzarri calcisticamente parlando. Niente di meno. Convocati. Allora, sta parlando Conte su Balotelli dicendo: è uno qualunque, se fa le cose che dico bene, se no qui ci sono le porte girevoli, ci viene una volta e poi più. Ha aggiunto: è stato chiamato per essere valutato. Queste le parole di Conte su Mario Balotelli. Ma poi torniamo ancora sull'argomento, se non vi dispiace. Intanto Davide da Treviso, buongiorno. Sì, sì, pronto, eccomi, grazie per la convocazione. Io volevo appunto fare due parole. Io sono un inguaribile sostenitore di Balotelli, c'è poco da fare. È uno dei migliori talenti. Siete in due. Siamo in due. Beh, certo, partito. Sì, ma è logico, lo chiama il Conte, lo chiama perché? Perché di fronte abbiamo la Croazia. È ovvio che con l'Azerbaigian, con il Kashmir, che abbiamo giocato. Lei è troppo tifoso. Sì. Comunque volevo anche fare due parole sul discorso degli allenatori, che dicono che sono fondamentali, ma non è vero. Cioè, oddio, contano sì fino a una certa percentuale X che si può dare, ma guardiamo anche il discorso di Allegri. Al Milan l'abbiamo mandato via perché non valeva niente. È andato alla Juve e guarda caso adesso sta facendo i migliori risultati, meglio ancora di Conte. Per cui gli allenatori si guardano soprattutto e si validano soprattutto se hanno dei grandi giocatori. L'Inter povero con Mazzarri, cioè il Mazzarri povero con quell'Inter, e sta facendo secondo me un ottimo lavoro, più di così non so cosa possa fare. Beh, magari qualcosina in più sì, però torno a ripetere, in quell'ambiente diventa particolarmente complesso. Ho trovato uno che ti fa valutare più di me, Pardo. Dire che l'ha chiamato adesso perché c'è la Croazia, quindi un'avversaria tosta e non con l'Azerbaigian, non credo sia proprio così. Comunque. Ma guarda, è una storia abbastanza contraddittoria, perché il vero paradosso di Balotelli è che finora, dal punto di vista pratico, lui non ha pagato mai i suoi errori o il suo scarso rendimento. Li ha pagati magari come occasioni perse. Ma adesso è un disastro, zero gol in 682 però, minuti di premio. Tu guarda la carriera di Balotelli. Allora, lui comincia con l'Inter, fa delle buone cose, poi litiga, c'è la famosa maglia gettata, Mourinho lo aspetta, a un certo punto decide che non se ne può più e va a stare meglio dal punto di vista economico, va al Manchester City e cresce. Dal Manchester City sappiamo come va a finire, con Mancini con le mani addosso, e alla fine va al Milan, mega ingaggio, prende un sacco di soldi, viene acclamato eccetera eccetera. Dal Milan altro fallimento e va al Liverpool a guadagnare ancora di più. Cioè il vero paradosso, non lo dico, verissimo, è verissimo, è cronaca, ma è questa la considerazione da fare. Sono invidioso, sono contento per lui, però il dato di fatto è questo qui, cioè che questo ragazzo ancora da un punto di vista strettamente pratico non ha sentito su di sé il peso del mi sono comportato male, ho perso questa occasione, certo. E adesso rosico, come diciamo noi a Roma. Ma perché sai, per certi giocatori poi diventa anche difficile distinguerlo, per certi personaggi possiamo allargare il discorso, per certi sportivi diventa anche molto difficile, sono casi rari, ma è molto difficile separare l'aspetto commerciale del marketing dall'aspetto del rendimento in campo. Oggi leggevo che il figlio di Beckham è stato 15 anni, Brooklyn è stato tesserato dall'Arsenal. Beh, è chiaro, Beckham altro personaggio rispetto a Balotelli, tutto quello che vuoi, però per certi di questi diventa davvero difficile separare un aspetto dall'altro, e quelle maglie numero 45 che oggi vengono restituite ai banchetti sono state vendute in grandi quantità quando Balotelli andò a Liverpool. La ragione non la so, sono d'accordo con te. Sentiamo Renzo, provincia di Carbonia, poi ti lascio andare alla redazione di Tiki Taka, Pierluigi. Renzo. Sì, buongiorno ragazzi, complimenti per il programma, specialmente queste ultime settimane, brillanti conduzioni anche in tre con il vostro amico Capuano, bravi. No, una cosa, io sono un tifoso della Roma, però volevo dire una cosa sull'Inter, oltre che ricordarvi la maglia di quest'anno della Roma, quella bianca che è bellissima, credo che, vero, sono che Pardo sia anche, l'ho sentito dire anche da lui, ma è una vecchio stile, anche vecchie società sudamericane, argentine, così diagonale, mi piace molto. No, io volevo dire una cosa sull'Inter. Ieri sera Mazzarri mi ha fatto veramente un po' tenerezza, diciamo, no? Però lì credo che il problema sia che i tifosi si devono rendere conto di una cosa, cioè la società è sotto, diciamo, un cumulo di macerie dal punto di vista economico, quindi devono avere un po' di pazienza e non possono certo pensare che in un anno possano tornare a essere quelli che sono stati per qualche anno. Moratti ha vinto tanto, però ha lasciato discreti disastri, quindi chi arriva giustamente vuole programmare. Certo, Mazzarri ha dei limiti, è chiaro, sì, che ma può essere anche una squadra, comunque una squadra di riprogrammazione può essere anche nel target di questo allenatore. Il discorso è che non ha nessun tipo di appeal nei confronti della tifoseria. Ma comunque, Pier, te lo immagini il derby dopo il brodo della nazionale? Già te lo dico, pareggio della paura, no? Insomma, mi piace comunque a me il derby di Milano, con tutte le paure, con tutte le tristezze, però secondo me sarà una grande partita, e sai, il pareggio della paura alla fine non risolve più di tanto. Grande assenza, Medel da una parte, Bonera dall'altra. La distanza è minima, ma la distanza d'umore invece, per tutta una serie di motivi, uno dei quali è quello che ricordiamo dall'inizio della stagione, cioè che Inzaghi è uno di casa, mentre Mazzarri viene percepito da alcuni nemico. Sicuro. La differenza di clima che c'è tra Milan e Inter è abissale. Poi guardi la classifica, insomma, stanno lì, no? Assolutamente. E stanno lì in una situazione nella quale non è che tu dici, beh, stanno lì, ma l'Inter è così più forte del Milan che dovrebbe stare un pezzo. No, stanno lì perché sono due squadre, secondo me, tutte e due con un margine di crescita, ma tutte e due ancora assolutamente fragili e che devono ancora tirar fuori il meglio. Quindi totalmente incompiute. Totalmente incompiuta al momento. Ciao Pier, ci sentiamo domani, buon lavoro. Ciao. Bet Corner GR, poi di nuovo qui 800 24 00 24, vi aspettiamo. Quote e pronostici. Si conclude quest'oggi il 13° turno di Serie B con la gara del San Nicola tra Bari e Ternana, due squadre con ambizioni diverse. Vediamo dunque le quote SNAI per la gara di questa sera con calcio d'inizio alle ore 20:30. L'1, la vittoria del Bari, è quotata 1,90, l'X è quotato 3,20, il 2 invece con il successo della Ternana è quotato 4,50, under a 1,63, over a 2,15. Questa sera in campo pure la Lega Pro con la gara del girone B tra Foggia e Lupa Roma. L'1, la vittoria del Foggia, è quotata a 2, l'X è a 3, il 2 invece con la vittoria dei Romani è quotata a 3,80, gol a 1,78, no gol a 1,92. Chiudiamo con il basket perché questa sera scende in campo la Serie A con il posticipo tra Reggio Emilia e Milano. Palla 2 alle ore 20:30 a Reggio Emilia. L'1, la vittoria dei padroni di casa, è quotata a 3,60, il 2 con la vittoria di Milano è quotato 2,30. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Allora c'è Alessandro Pasini che sta per tornare da Marquezlandia, dove ieri ha visto per il Corriere della Sera l'ultimo atto del moto mondiale. Ciao Ale. Ciao, buongiorno a tutti. Giusto, ho detto giusto, stai per lasciare Marquezlandia, no? Marquezlandia, sì, ormai questo è. Marquezlandia, che poi è un impero, no? Che parte da qui ma si diffonde. È un impero su cui non tramonta il sole ormai. Esatto, Marquezlandia è appena sorto perché questi ragazzi sono giovanissimi. Ti posso confessarti una cosa? Io sono un politicamente scorrettissimo sostenitore del tifo contro, del gufismo, sì, di tutte queste cose. L'anno prossimo io sinceramente a sentire l'inno spagnolo non ce la faccio più nel moto mondiale. Quindi già questa stagione mi è spiaciuto da morire per Jack Miller, che non ha vinto il titolo del 125 a beneficio di Alex Marquez, e allora Alex da una parte e Mark dall'altra, e adesso naturalmente c'è anche Tito Rabat, che non è loro fratello, lo scrivi oggi sul Corriere della Sera, non è loro fratello di sangue ma è loro fratello aggiunto, ha lo stesso manager al Zamora. E allora? E allora, come dicevo appunto sul giornale, bisogna aspettare che arrivino tutti in MotoGP per vedere un Marquez perdere, perché tra qualche anno, perché mi sa che in questi anni dobbiamo aspettarci dominio. Adesso non esageriamo, perché Alex andrà in Moto2 l'anno prossimo, insomma non credo che sarà già pronto, però chissà, però appunto c'è questo Rabat, insomma c'è questa scuola spagnola. Adesso cito a memoria, mi sembra che sia la terza tripletta spagnola in 5 anni nei 3 titoli, quindi è chiaro che siamo davanti a un periodo così. Del resto la Spagna ci ha abituato, no? Ormai da anni sta vivendo una primavera un'epoca d'oro in tutti gli sport, no? In tutti gli sport, e quindi sono i cicli. Noi stiamo lì, abbiamo Valentino esatto. assicura che poi con la sua Academy usciranno nuovi talenti. Io ci posso anche credere, perché quando ti insegna un maestro così, se hai un figlio di talento e un po' di volontà, insomma qualcosa imparerai. Già Fenati eccellente stagione, direi, esatto, ma un po' tutti. Devo dire che anche in MotoGP, insomma, Dovizioso ha fatto una buona stagione, sì, e anche Iannone ha fatto vedere dei grandi numeri. Ecco, Iannone mi sembra un po' uno di quei bomber che fa delle grandi partite, grandi gol, ma dal quale ci si aspetta la continuità, no? Per usare una delle frasi che piacciono tanto a noi, no? Che serve la costanza, la prestazione. Però se arriva, è uno che ci può regalare grandi gioie. Del resto ieri ha fatto metà gara coi primi, dando spettacolo, insomma, quindi. E poi vabbè, il tifo, tu parlavi di tifo contro, giustamente, insomma, io dico anche non ci arrocchiamo a tifare Italia, ecco, più che altro è vero, ci vorrebbe qualcun altro che non sia spagnolo. No, ma io tifo per il pensionato, tifo dichiaratamente per il prepensionato, che comunque quest'anno ha pettinato Pedrosa e Lorenzo, il che non è male, e ci affidiamo a lui, cioè tutti quelli che non tifano Marquez l'anno prossimo non possono che affidarsi alle grucce del prepensionato. Ma lui insomma, adesso voglio dire, che cosa possiamo dire ancora di lui? Possiamo solo dire che ci stupisce chi ancora ha qualcosa da dire. Guarda, anche tra colleghi noi ci scopriamo, non so, a cena, queste cose qui, ti cito ieri sera, proprio a dire queste cose, dice: ma come si fa ancora a criticarlo? Poi può essere simpatico, antipatico, ma questo è un altro discorso. Ma quello che fa lui è veramente fra i grandi, ma io voglio dire i grandi, insomma, no? Michael Jordan, Cassius Clay, insomma, questi qua, perché leggenda poi dello sport, dai Ale, leggende, quindi sai, detto questo è un po' difficile. Questo non vuol dire che non lo si critichi nello specifico, non si debba criticare il periodo Ducati, non si debba ricriticare la questione del fisco, tutte queste, però voglio dire, questo è il passato, il presente è quello di uno straordinario ragazzo di 35 anni che, attenzione, l'anno prossimo tornerà ancora più affamato e forte di prima. Io ti dico solo che nella seconda metà del campionato lui ha fatto più punti di Marquez, e non sottovaluterei la cosa che lui ripete, cioè che Silvano Galbusera, il nuovo capotecnico, era il primo anno, cioè era un principiante, sì, e con un anno in più di esperienza a questi livelli, con l'elettronica, la conoscenza dei circuiti eccetera, aspettiamoci grandi cose. Ma la vera domanda, Alessandro, la Yamaha è in grado di dargli una moto al livello della Honda? Perché la domanda è questa, è evidente. Sì, certo, sicuramente, questo è un tasto delicato, perché la Honda è sempre la migliore. Quando non vinceva, forse perché non aveva il grande pilota, ma appena avuto Stoner o Marquez ha vinto, capisci? Mentre quando aveva Pedrosa prima punta, quindi con Pedrosa prima punta non vinci mai. Povero Pedrosa. Non vinci mai, guarda, non vinci mai. Pedrosa è secondo, si dice, uno è una garanzia, in fondo lo è anche lui, ma in un altro senso. No, però io ti dico, la Yamaha sta crescendo. Il problema qual è? Che da qua ad aprile, insomma, le cose cambieranno. Ecco, come si dice, è un peccato che sia finita adesso la stagione, perché forse avremmo cominciato a vedere belle cose. Però io credo che non si tratta di avere la moto migliore, ma di essere un filo vicini, perché allora se tu sei a due decimi anziché a 7-8, anche l'altro ha un atteggiamento differente, che poi in fondo era quello che faceva Valentina ai primi tempi di Yamaha. Non l'aveva trasformata nella più forte, però era lì, induce all'errore. Allora chissà che Marquez si senta meno sicuro, eccetera eccetera eccetera, vedremo. Però che devi dire, insomma, questo è un mezzo titolo, ecco, non è il decimo titolo, no, ma è un mezzo titolo, ma di sicuro, perché ti ripeto, comunque aver battuto la Honda di Pedrosa, che è il perdente per antonomasia, però aver battuto anche Lorenzo, che ha iniziato malissimo la stagione, sì, con la sua stessa moto, vabbè, un mezzo titolo ci sta. Speriamo tutti, sì, che riescano a dargli la moto per quantomeno per stare vicino a Marquez, come dici tu, insomma. Sì, io confido, insomma, penso, lo credo, e vediamo. Tra l'altro cominciano già i test adesso, questi saranno poco indicativi, ma poi da gennaio siamo tutti di nuovo pronti per un'altra avventura, no? Con il Valentino Express. E via bene, verso nuove avventure. Tanto sì, muori. Sì, ha garantito almeno 2 anni, quindi sì, almeno, ricordiamoci. Intanto buon viaggio di ritorno da Marquezlandia. Grazie Carlo. Ciao, grazie. Ale. Un saluto a tutti. Grazie, ciao. Alessandro Pasini. Marc Márquez e Valentino Rossi sul podio, podio di fuori classe, podio di leggende. Campione del mondo con tuo fratello, due campioni del mondo nello stesso anno, un record, un sogno che si avvera, insomma il tuo sorriso dice tutto. Sì, era il sogno più difficile, più importante, più speciale. Alla fine credo che abbiamo fatto una gara incredibile, abbiamo lottato con tutti, contatto tutto, è stata una gara molto dura, ma alla fine grazie al team, al sponsor, a Honda, perché ha fatto un lavoro incredibile, è molto contento. Voglio ora enjoy questo e dopo vediamo che succede, ma voglio disfrutare questo. Molto contento per mio fratello, adesso vediamo chi corre MotoGP, adesso parlo con la moto perché è un po' di festa. Ma nella storia siete due fratelli con lo stesso mondiale nello stesso anno. Molto contento per mio fratello, perché so che ha lottato e è stato vicino fino alla fine. Grazie. Io li ammiro, mi ammiro, soprattutto Mark, che è un fenomeno assoluto, 21 anni, fratellino ne ha 24, non ricordo che ha vinto ieri 125, però non li sopporto più. Parlo da tifoso, eh. Saverio, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi può dire lei da dove chiama? Perché così... Io chiamo da Trani, provincia di Bari. Provincia di Bari. Trani. Sì. Volevo fare due considerazioni. Dica. Per quanto riguarda l'Inter, sono un interista nato, cresciuto, i miei 50 anni, mi vergogno un po', perché come squadra non riesco più a capirla. Perché? Perché l'allenatore per me non ha tutta la colpa, per me è la nuova società che ci vorrà un po' di tempo per uscirne fuori. Beh, ma questo l'avevano già detto prima, no? Sì, e poi per un'altra considerazione, per quanto riguarda la Juve sarà anche forte, ma solo in Italia, fuori non, secondo me uscirà di nuovo dalla Champions League. Questo lo vediamo. Perché non è, secondo me non è un granché come squadra. Quando incontrerà qualcuna più dura non sarà all'altezza di poterla battere. Ma sì, si tratta di capire quali sono i confini della Juventus, è chiaro che... E poi le chiedo scusa, per dica. Finire, per me l'Inter almeno ci vorranno almeno altri 4-5 anni per uscire, sì, questo fuori, l'hanno perché... detto, ma l'hanno detto, Saverio, sì, queste perché... sono cose che hanno dichiarato pubblicamente, cioè la società ha detto il piano sarà quadriennale, no, quinquennale. Io la prima volta che ci parlo con questa trasmissione, no, ma anche... sì, ma è il benvenuto, dico, quando vuole. Gli interisti sono sono, da interista sono proprio mortificato. Ma non è il caso, secondo me. Saverio, non si abbatta, non si butti giù così, non si butti giù così. L'hanno detto, cioè, il discorso è che l'Inter è in una fase di ricostruzione. C'è stato il lunghissimo ciclone Moratti, inutile stare a ripercorrere tutta la storia. E la tonnellata di denaro buttata dalla famiglia Moratti nell'Inter, e poi Calciopoli, e poi le vittorie, e poi il triplete, e poi Mourinho, e poi tutte queste cose, e poi adesso la cessione e dei conti che fanno paura, e un nuovo proprietario e una nuova società, e tutto da ristrutturare, ricostruire con il tempo, con un pelo di pazienza, che lo so che non ne piace far ridere la pazienza, però la situazione mi sembra molto chiara, quella, la situazione dell'Inter, e non mi sembra una situazione onestamente così disperata. È chiaro che se parte la prospettiva, ok, sono l'Inter del triplete, ho questa maglietta addosso, devo competere per certi titoli, allora non puoi che farti assalire dalla depressione, ma l'Inter è una società in fase di ricostruzione, il progetto mi sembra avviato, l'anno scorso non lo era per niente, l'abbiamo detto molte volte, quest'anno mi sembra un progetto magari discutibile, però un progetto dalle linee abbastanza chiare. Claudio da Genova, buongiorno. Claudio? Cose velocissime. No, ma mi dica anche lei, piove o non piove? Perché io continuo a ricevere messaggi contrastanti. Io, beh, pare che io ne vengo da fuori perché sono in giro per lavoro, quindi sì. Però oggi ha piovuto tanto, adesso sembrerebbe che abbia smesso. Però stamattina è venuta veramente tanto. Perché io ricevo messaggi contrastanti, c'è chi dice piove da stamattina, c'è chi dice ha smesso stamattina. Quindi, ma a Levante è piovuto di più, a Ponente è piovuto meno. Dipende dalle zone. Così, esatto. Allora, una cosa statistica velocissima. Io sono più o meno, ho una memoria di 30 anni di calcio, io ne ho 40, quindi io non mi ricordo tanti rigori sbagliati rispetto a quelli realizzati come quest'anno. Non so se lei mi può aiutare in questo senso. Io per esempio ieri 3 su 5 via a casa, sbagliati. E secondo lei questo dipende da rigoristi scarsi o da portieri che sono molto migliorati? Beh, Andanovic è un pararigori, questo lo sappiamo. Da tifoso del Genoa posso dire che il mio portiere è forte, quindi magari li passa. Però vabbè, questo è un discorso. Ma non è una considerazione, non è una cosa da poco, Sentivo adesso c'è questa cosa che dicono che vogliono portare le famiglie allo stadio, Io faccio il mio esempio personale. Vogliono portare le famiglie allo stadio, ma dall'altra parte fanno di tutto per non portarci. Io da tifoso del Genoa, con un bambino di 5 anni, dico, vabbè, ogni tanto quasi quasi vorrei portarlo a vedere il Genoa. Lui mi chiede sempre, portami, andiamo a vedere. Le ultime 3 partite del Genoa in ordine: Genoa-Empoli lunedì alle 20.45, sì. Genoa-Juventus mercoledì alle 20.45, la prossima Genoa-Palermo lunedì alle 20.45. Ora, con tutta la buona volontà di questo mondo, io ho un bambino di 5 anni e mezzo allo stadio alle 9:15, ma che ora lo faccio andare a dormire? Lo so, ma è un altro. Anche la nazionale gioca la domenica sera alle 20:45, tutti a dire, vabbè, ma volete far venire i bambini dalle scuole, giocate la domenica sera d'inverno 20:45. Purtroppo queste sono esigenze dalle quali non si può tornare indietro, Claudio. Cioè non vedremo più tutte le partite la domenica pomeriggio alle 2:30 come succedeva molti anni fa, quindi queste sono esigenze, ma che non sono solo italiane, non sono questioni solo italiane, dalle quali indietro non si può tornare. Piuttosto io mi domando perché sia necessario fare 2 settimane di vacanza nel periodo di Natale, manco fossimo nel calendario scolastico. In Inghilterra, così come in America, per altri sport, nel periodo delle vacanze addirittura si moltiplica il numero delle partite. Poi possiamo innestare molti discorsi collaterali dagli infortuni, alla necessità di pause, quello che volete. Però quello che dico io è che con un po' di fantasia, di immaginazione, di buona volontà si potrebbe realizzare questo. Poi magari ti fermi a gennaio 2 settimane quando magari non ci sono esigenze di questo tipo. Il fatto è che dallo spezzettamento dei calendari per esigenze naturalmente televisive non si può tornare indietro. Giuseppe Napoli, buongiorno. Giuseppe, buongiorno. Pronto? La mi dica. Buongiorno, mi scusi, stavo con viva voce ad ascoltare. C'è problema, sono qua. Io chiamo da Napoli, però attenzione, non è una critica la mia, volevo dire soltanto che, per carità, capisco che l'Inter, insomma, Milan hanno tanti problemi, però voglio dire, ogni tanto un po' a parlare di Napoli, perché anche se questa comunque è una radio nazionale, no, voglio dire, attenzione, mi ripeto, non è una critica, però a me piacerebbe ascoltarlo. E dunque, parliamone. Io lavoro, sono sempre in auto e mi piace ascoltarla, però insomma, ha ragione, parliamone. Noi facciamo, no, ma non è esattamente vero. Comunque parliamo di Napoli. No, niente, volevo un po' che lei esprimesse un po' la prestazione di Napoli di questo periodo, insomma. È stato un giocatore insigne che praticamente può essere un futuro della nazionale, no? Perché si è infortunato, però non ho sentito dire nemmeno. Non avete speso nemmeno una parola. La verità, abbiamo spesa all'inizio della trasmissione, è stata la prima cosa di cui abbiamo parlato, facendo un enorme in bocca al lupo a Lorenzino, perché ieri si è fatto male, ma si è capito subito che era qualcosa di grave. Crociato starà fuori parecchio, dai 4 ai 6 mesi, ed è un peccato perché era nel momento migliore della sua stagione, fin qui che è iniziata non benissimo. Napoli, si è detto prima, è reduce da una settimana praticamente perfetta, no? La vittoria con la Roma, il rilancio in Europa, e attenzione perché l'Europa per il Napoli è questa Europa, quella d'Europa League, è estremamente importante per il Napoli come per l'Inter, a mio parere. E ieri una vittoria su un campo ovviamente molto difficile, una vittoria che dà, secondo me, la misura in questo momento delle ambizioni del Napoli. Sarà molto difficile scollare il Napoli da quel terzo posto. Non credo che possa diventare più di un terzo posto, ma da lì sarà difficile toglierlo. Piuttosto mi viene, tra poco vi faccio sentire Benitez. Un mese e mezzo fa Benitez non era, rispetto all'opinione pubblica napoletana, non era in una situazione, in una posizione molto diversa da quella in cui si trova oggi Mazzarri. Allora è stato difeso da De Laurentiis, difeso dalla società, e adesso guardate il Napoli dov'è. Tante cose che abbiamo fatto bene, ma la cosa positiva anche è che possiamo ancora migliorare. Ho visto tante cose che si possono migliorare, ma vincere qua non è facile, l'abbiamo fatto e vogliamo essere a questo punto. Piano piano, c'è il terzo posto. Sì, piano piano, vediamo, abbiamo 15 giorni, dopo pensiamo a Cagliari, che sarà l'obiettivo, 3 punti la prossima partita, e vedere dove arriviamo. Uno contro uno, lascia partire il cross, pallone che sfila, Popovic, il Pipita, Higuain, avanti il Napoli, al 16esimo, stavolta non ha perdonato. Io chiamo da Trani, provincia di Bari. Provincia di Bari. Trani, provincia di Bari. Sì. Convocati. Allora, consigli per gli acquisti a Toir, acquisti di gennaio, magari così. Asava, Rekova, golazo! Señoras y señores, 49 minutos largos, la falta fue cobrada antes del 49, un minuto entero se lo llevó el tiro libre, y Rekova, señoras y señores, en la hora, le va a dar la victoria nacional con un golazo impresionante de tiro libre. No tiene un pie, tiene una mano, y una mano mágica al 20 en la zurda. No tiene un pie, tiene una mano, el soggetto es... Alvaro Rekova, minuto numero, avete sentito, 49 largo, punizione nel derby Peñarol Nacional, Rekova gioca nel Nacional, punizione da 30 metri e lui che infila, una parabola che i tifosi italiani dell'Inter possono ricordare. Difficile riconoscerlo perché peserà, so, 30 kg in più rispetto a quando era un giocatore di pallone, perché adesso è difficile pensare che lo sia. Anche se non tiene un piede, tiene una mano, e quindi Alvaro Rekova decide così il derby di Montevideo. Allora, vorrei tornare in Inghilterra perché sono delle parole di Conte. Mario Balotelli, come cerce un patrimonio del calcio italiano, ha detto oggi l'allenatore della nazionale: è sciocco pensare che sia qui per lo sponsor, tanto per rispondere a molti ascoltatori che mi stanno scrivendo questo, la risposta di Conte, non mia. Lui non vive il suo momento migliore, forse è meglio così, non mi piace, sentito dire, è giusto testare e valutare un giocatore. Se non gioca domenica rimarrà con noi anche per l'Albania, conoscete le mie regole, non transigo. Ha esperienza importante con la nazionale, avendo già fatto un mondiale e un europeo. È importante ma non basta, dovrà riempire il mio occhio, se si adatterà a un tipo di calcio. Altri me l'hanno già dimostrato, lui deve farlo. Per il momento Immobile, Zaza, Pelé e Giovinco partono avvantaggiati. Non ci sono gerarchie, ma gli altri quattro sono più avanti. E se in settimana Balotelli mi dimostrerà di aver raggiunto gli altri a livello di voglia e di passione, potrà anche superarli. Questo ha detto Conte. Io invece voglio sentire cosa dice il principe dei corrispondenti di sport dall'Inghilterra, Gabriele Marcotti. Ciao Gabriele. Ciao, buongiorno. Ciao. Perché il peggior Balotelli di sempre va in nazionale secondo te? Ma innanzitutto secondo me ha detto bene Conte quando dice che non vuole prendere decisioni per sentito dire. Qui tutti fanno, qui bisogna notare che Liverpool è veramente una pessima squadra in questo momento, ma non per colpa di Balotelli, nel senso che anche lui ha le sue responsabilità, ma in realtà lui individualmente ha sbagliato 2-3 partite, nelle altre comunque ha mostrato un impegno, non è stato isterico, non è stato petulante, non ha fatto tutte quelle cose che si dice sono il suo pane quotidiano. Lui comunque sta mostrando un livello di impegno che secondo me alcuni dubitavano. Quindi secondo me forse Conte ha voluto anche ricompensare questo. Sì, resta un dato impietoso, 0 gol in Premier in 682 minuti. No, vabbè, è 0 gol in Premier, però intanto ha segnato in Champions, ha segnato in Coppa di Lega, ma sì. A parte quello, obiettivamente lui vede pochi palloni in questo momento, il Liverpool sta giocando veramente male e quindi lui si sta adattando in altre maniere. Il gol di Emre Can contro il Chelsea sabato è anche merito di un taglio in profondità di Balotelli che... Magari il Balotelli pigro, egoista di una volta non avrebbe fatto. Sì, quindi tu dici dal punto di vista dell'impegno è un Balotelli che ci sta, dal punto di vista dell'opinione pubblica che c'è intorno a lui, prima parlavamo con Pardo, è uno di quei giocatori che è andato a guadagnare sempre di più, no, nel corso della sua carriera, pur uscendo dalle esperienze precedenti perdente, no? Questo è indubbio, anche a Liverpool, quando è arrivato magliette col 45 eccetera eccetera, in questi giorni vediamo i tifosi davanti alle bancarelle che restituiscono queste magliette. Dal punto di vista dell'opinione pubblica a Liverpool non mi sembra stia vivendo un grande momento. Ma diciamo che a livello locale, a livello dei tifosi del Liverpool, che comunque sono sempre molto, molto desti a prendersela con i loro giocatori, lui sicuramente non è l'imputato numero uno. Spesso sono diventati un po' protettivi, ha avuto anche delle partite veramente pessime, ripeto, però insomma va anche detto che lui ci impegna, lo sta mettendo. E poi tra l'altro questa storia qui che andava sempre a guadagnare sempre di più, almeno poi dopo ovviamente nel mondo del calcio tutti sono dei Pinocchio. Però il Liverpool almeno insiste sul fatto che lui si è tagliato lo stipendio rispetto a quello che guadagnava il Milan. Sì. Loro lo gridano ai 420, quindi poi dopo c'è da chi credere a loro, credere al Milan, credere al Raiola, non lo so. Allora, ascolto un'ultima cosa, dal punto di vista del passatempo, come se la sbriga Balotelli? Perché in questi giorni abbiamo visto anche le immagini, parlavamo anche di questo, parlavamo prima, dopo la partita al Liberty Club di Londra, si fa molta letteratura e molta filosofia intorno alla vita privata dei giocatori inglesi. Tu dicevi sul campo non c'è molto da dire, al di là di un rendimento che in termini numerici non è soddisfacente, fuori dal campo? Fuori dal campo che lui si diverta non c'è dubbio, però insomma finora è stato fatto senza alcuni degli eccessi anche mediatici che si sono visti ai tempi di Manchester, cioè niente freccette, niente follie con la ex di Rooney eccetera, cioè per il momento diciamo esce, si diverte in essere di libertà e via dicendo. Anche questa presunta notte brava dopo la sconfitta con il Chelsea, insomma comunque era il sabato sera, la domenica era libero, quindi quindi sono un po' fatti suoi, tu dici, ma anche perché in Inghilterra comunque sono abbastanza abituati al fatto che i giocatori si facciano gli affari loro nel tempo libero. Senti, come valuti le quattro grandi malate, Arsenal, United, Liverpool e Tottenham, classifica da incubo per tutte queste? Sì, io aggiungerei anche comunque a livello di malati anche Manchester City, che comunque nelle ultime 7 partite ne ha vinto una sola contro il Manchester United e appunto rischia l'eliminazione dalla Champions. Diciamo che sono probabilmente motivi diversi, l'Arsenal mostra le solite pecche difensive, Liverpool evidentemente l'anno scorso era troppo Suarez, Sturridge dipendente, il Manchester United è un enorme cantiere e si sapeva, probabilmente anche il fatto che Van Gaal ha iniziato a lavorare soltanto dopo il Mondiale non ha aiutato le cose. Il Tottenham mi sorprende perché io, magari sbagliando, pensavo che comunque c'era una buona rosa, Pochettino un buon allenatore, sicuramente questo fine settimana comunque contro lo Stoke è stata una delle peggiori gare della stagione. Grazie Gabriele, buon lavoro. Grazie, ciao ciao ciao, divertiti sulle tracce, sulle orme di Balotelli. Dopo la partita con il Chelsea è andato a letto alle 4:30 del mattino, scrive Roberto da Vicenza. Vabbè, ma tanto non... Roberto, glielo dirà la sua mamma che non deve andare a letto così tardi, ma non è così importante. Intanto mi sembra importante invece registrare quanto detto da Marcotti. È vero, è il peggior Balotelli di sempre, però dal punto di vista del così della voglia magari anche di giocare a pallone, a Liverpool non sta facendo malissimo. È anche vero che gioca in una squadra al momento profondamente depressa. Mai quanto il Dortmund, mai quanto il Borussia Dortmund. Non so se avete visto, vi invito a farlo, il super autogol di Kramer con il quale il Borussia Dortmund ha vinto la partita con il Borussia Mönchengladbach 1-0 dopo 2 mesi senza vittorie, dopo 5 sconfitte consecutive. Era ultimo in classifica e adesso in classifica di punti ne ha 10, un po' come l'Empoli. Francesco da Varese, buongiorno. Buongiorno, salve gente, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Allora, io la chiamavo, non vorrei andare fuori tema, non credo. Comunque volevo riprendere l'argomento dell'arbitro Luigi Rosato, quel ragazzino di 17 anni che durante una partita in seconda divisione nel Salento ha subito un'aggressione dai calciatori e direi poi un'altra aggressione molto più pesante dal presidente di quella squadra. Niente, per dire, siccome la vostra è una trasmissione, mi piace molto perché si sente che si parla di passione del calcio, di passione di tutti gli sport, volevo solo parlare del rimettere in evidenza la passione anche di altri ragazzi. Anche mio figlio fa l'arbitro di calcio a livello dilettantistico, la passione di tanti ragazzi che amano il calcio, non giocano ma partecipano e direi con un certo peso alle partite di calcio. È evidente, ma poi partecipano altro che, ma poi continuiamo a dire che c'è un problema di vocazioni in campo arbitrale. E te credo, quando ti trovi di fronte, caro Francesco, dei personaggi come questo presidente Rosario Fina, che è quello cui tu facevi riferimento, che parlano così, allora voglio dire, ti scappa anche la voglia di mettere un fischietto in bocca. Al Comunale di Cavallino interveniamo col presidente Rosario Fina, delito oggi nella partita di campionato di seconda categoria. Ci può dare qualche notizia, presidente? L'arbitro secondo me ha sbagliato e doveva essere punito. Secondo me sono stati pochi 2 schiaffi quelli che ha preso, ne meritava molti di più. Sono stati schiaffi diretti verso l'arbitro? Sì, ma leggeri però. Potevano essere più forti. Quindi lei che cosa ne pensa, diciamo, di tutto ciò? Se fosse capitato nelle mie mani l'avrei ammazzato. Tutti convocati. Visto che siamo al trash talk più totale, no? Dopo aver sentito il presidente di Rosario Fina di questa squadra in seconda categoria del Salento, aver sentito cosa ha detto, visto che siamo nel campo del trash talk più totale, a proposito di grande eleganza, una scivolatona anche quella di sabato nel prepartita di Fiorentina-Napoli per Vincenzo Montella. Ricordate la storia? C'era qui Cruciani l'altro giorno con queste conferenze, c'era una conferenza stampa prima dell'Europa League, Pizzarro aveva detto dobbiamo toglierci lo smoking, dobbiamo tornare a indossare vestiti più umili eccetera. È tornato questo discorso in conferenza stampa sabato e allora Montella è stato chiesta sta storia dello smoking e lui ha risposto così. Buongiorno. Allora, la prima è questa: dopo lo smoking che cosa ci si deve togliere in vista di domani? Lo so che da donna te speri che qualcuno si tolga qualcos'altro, però... Risposta sbagliata Vincenzino, risposta sbagliata, capisco il nervosismo a Fiorentina quest'anno con tutte le attenuanti del caso, valide, non è un granché. Vito da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Dunque, il caso caso, insomma, per la convocazione di Balotelli. Ecco, Conte mi ha deluso un po', perché cioè, cosa ha meritato Balotelli per essere stato convocato? Lui che diceva devono dimostrare in campo qua e là, su e giù, adesso mi viene a pensare lo sponsor, metà dello stipendio di Conte lo paga lo sponsor, mi viene a pensare quella cosa lì. E ci risiamo, se vi ricordate il Del Piero Baggio, ci risiamo. Ai tempi di Maldini allenatore. Cosa c'è? Perché Del Piero Baggio, scusi? Che Del Piero doveva giocare Del Piero, perché era mezzo acciaccato, non so se vi ricordate, era gli europei del 90, del 2000, può essere? Sì, può essere. Che c'era questa staffetta, Baggio che era informissima, così sì. No, doveva giocare Del Piero, mi ricordo i tifosi, metti su Baggio. Beh, ma i tifosi fanno i tifosi, Vito, ma perché insomma a pensar male si va a peccato, lei dice non si sbaglia quasi mai, come diceva il signore di qui sopra, però è chiaro che questa è l'accusa che viene mossa ad Antonio Conte, che Balotelli sia un talento importante nessuno lo mette in discussione, perché chiamarlo alla vigilia di una partita così delicata e difficile come quella della Croazia, mi domando io, perché non chiamarlo magari in nazionale dopo qualche gol in Premier League, in un momento meno difficile di questo, anche in maniera furba, voglio dire, se tu convochi Balotelli in questo momento, non ha segnato lo straccio di un gol in Premier, non sta giocando bene nonostante l'impegno, come ci diceva Marcotti prima, è chiaro che ti espone a certe critiche. Se Conte fosse davvero furbo, fosse stato, avesse voluto davvero fare il furbo fino in fondo, magari l'avrebbe chiamato in un momento diverso da questo qui. Poi, ragazzi, ognuno ha il suo pensiero e se lo tiene, come giusto e sacrosanto che sia. Dal nostro punto di vista, noi siamo felici della convocazione di Balotelli, anche perché ci risolve questa settimana un sacco di problemi. Non abbiamo campionato, c'è la nazionale, eccetera, eccetera. Pausa, lunga pausa, novembre, molto difficile. Conte ci fa questo regalone. Luigi, Napoli, buongiorno. Buongiorno. No, niente, volevo parlare di Mazzarri. Sì. Non so se non può ricordarsi, ma io l'anno scorso l'ho chiamato più o meno questo periodo qua, verso Natale, e dissi che Mazzarri non era adatto per l'Inter, doveva andare via, eccetera. E gli dissi, dobbiamo dare l'Inter agli interisti, o Real e Simeone. E lei mi disse, ma dobbiamo dare il tempo a una donna del genere, eccetera, eccetera, eccetera. E il tempo mi sa che non l'hai dato ragione, o no, mi sbaglio. Tempo non è ancora molto. Allora, se partiamo dal presupposto che l'anno scorso l'Inter è una squadra che non stava né da una parte né dall'altra, né con il vecchio ciclo né con il nuovo, c'erano ancora i vecchi argentini, era ancora una squadra che non aveva ancora cominciato a costruire. Quest'anno l'Inter ha cominciato a costruire, non è uno squadrone, è un progetto in embrione. Costruito cercando di risparmiare con grandissima attenzione al bilancio e così via. Siamo all'inizio del campionato, siamo ancora nella fase ascendente del campionato. La classifica dice che l'Inter ha 16 punti, il Napoli ne ha 21 ed è terzo in classifica, la Lazio, che sembrava una squadra miracolata, ha 3 punti in più, il Milan ne ha uno in più, c'è il derby nel prossimo futuro e Mazzarri viene messo in discussione dal primo minuto di questa stagione, dal primo minuto. Se questo è avere pazienza, posso chiedermi cosa voglia dire non averne, magari dobbiamo andare nel Salento, nel campionato di seconda categoria, forse quella è meno. Giorgio Modena, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo parlare, sono stato sabato scorso a vedere Bologna-Carpi. Sì. Soprattutto sono andato a vedere per cercare di capire quel ragazzo che ha il Carpi. Quel ragazzo, quel nigeriano che mi hanno detto che poi ha passaporto anche italiano. E ho è molto tempo che vado allo stadio e ho maturato la convinzione che questo è un mezzo fenomeno. Sì. E ho visto che si muove benissimo in campo, contrariamente a molti altri attaccanti, passa la palla anche agli altri. Secondo me questo è un ragazzo da tenere d'occhio attentamente. Si chiama Gerry, poi un cognome impronunciabile. Da tenere d'occhio senz'altro, perché questo secondo me è un Magari non piacerà a quelli che vedono solo giocatori italiani, ma dicono che sia, l'hanno definito un piccolo Drogba, mi sembra tanta roba, però i paragoni quando stiamo parlando di giocatori molto giovani sono sempre molto difficili anche da reggere. Però l'importante, io dico che i giovani da qualunque parte arrivino trovino spazio e campo. È bello vederli giocare ed è bello anche ricevere telefonate come questa e mi dicono, come quella di Giorgio che mi dice: è tanto non andavo allo stadio, sono andato a vedere sto ragazzino qui, un Bakogu, e sembra davvero bravo. Vi lasciamo con questa curiosità. Grazie a Franco Piantanella, nostro autore Roberto Scaltrini in regia. Torniamo domani dopo il GR delle 2. Ciao. Ma che buongiorno, allegri, allegri. Michael, cosa fai ancora qui? È quasi mezzanotte. Non riesco a dormire, papà. Se è per questo, neanche noi, con tutto il rumore che fai. Andiamo, dai, vieni dentro. Faccio l'ultimo tiro. Va bene, solo uno, eh? Certo. Niente male, fanne un altro. Stai diventando un cecchino. Se divento abbastanza bravo potrò andare al college. Se diventi bravo potrai fare qualsiasi cosa vorrai, Michael. Voglio giocare per la North Carolina. Ecco, hai detto una cosa saggia. Quella è un'ottima università, un'istruzione di alto livello. Voglio giocare in una squadra che vincerà il titolo. E poi voglio giocare nell'NBA. Tutti convocati.